Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della borsa italiana, che oggi è nettamente la peggiore in Europa, meno 2,70% contro Parigi che perde l'1,15%, Francoforte l'1%, Londra l'1%, Dow Jones meno 1%, quindi negative tutte le borse. Noi facciamo peggio perché vanno male i bancari, oltre che Saipem. Saipem perde il 6,60%, ma UbiBanca perde il 6,30%, UniCredit il 5,20%, Unipol il 5%, Unipol Sai il 4,15%, BPerBanca il 4,10%, BPM Banco BPM meno 3,30%, Mediolanum meno 3,20%, Generali meno 3%. Oggi non si salva nulla, nel senso che tra i titoli a maggiore capitalizzazione quello che perde meno è ST Microelectronics, lo 0,24%. Ci sono notizie anche su UniCredit che insomma cala dopo anche la pubblicazione del prospetto sull'aumento di capitale, e ne parleremo. E poi varie dichiarazioni, penso a uno dei membri della Banca Centrale Europea, e mi riferisco a Daniel Nui, secondo cui in Italia in questi primi 3 anni di vigilanza europea sono stati fatti scarsi progressi sul fronte dei crediti deteriorati, quindi delle sofferenze. I 20 miliardi stanziati dal governo per il fondo salva stati sono un aiuto importante, un buon intervento, però ci vorrà del tempo le banche italiane devono muoversi molto di più. Tra l'altro ci sono state anche una raffica di ispezioni della Banca Centrale Europea, degli ispettori della Banca Centrale Europea a UniCredit. Di questo parleremo. Parleremo anche però soprattutto della polemica che sta infuriando, come ricordava anche Oscar Giannino poco fa, negli Stati Uniti per le decisioni di Trump. Ha un cotè anche economico il blocco di ammissione di rifugiati di alcuni paesi, al di là di quello che molti fanno notare, cioè che non sono stati bloccati i sauditi, mentre nell'attentato 11 settembre furono pesantemente implicati anche i cittadini sauditi e negli afghani. Per quello che riguarda la decisione di Trump, faccio notare che si stanno, tra virgolette, ribellando o esprimendo pareri molto molto negativi tutti i grandi gruppi americani, a partire da quelli della Silicon Valley, cioè della dot economy, ma non solo. Poco fa è arrivata anche la Nike, che attacca e crede in un mondo dove tutti possono celebrare il potere della diversità. Così Mark Parker, amministratore delegato della Nike, critica il decreto sull'immigrazione di Donald Trump. I nostri valori sono minacciati dal recente decreto, è una politica che non sosteniamo. Hanno dopo di lui, o anzi prima di lui, erano intervenuti altri colossi della Silicon Valley, e Starbucks, che non è della Silicon Valley, ma ha annunciato che assumerà 10.000 rifugiati nei prossimi 5 anni, quindi la catena di ristoranti. E poi Netflix ha scritto Reed Hastings, mi sono legato l'azienda, le misure di Trump colpiscono i nostri dipendenti. Tim Cook, numero uno di Apple, non esisterebbe Apple senza l'immigrazione, ricordando che Steve Jobs, fondatore del marchio Apple, era figlio di un immigrato siriano, e la circostanza è particolarmente importante visto che la Siria è uno dei paesi bloccati, assieme a Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. L'Arabia Saudita e l'Afghanistan no, neanche il Pakistan, faccio notare che alcuni di questi attentati, penso all'11 settembre, la strage di Orlando, scusatemi, era Omar Mate, l'Arabia Saudita, 15 dei 19 componenti del comando dell'11 settembre erano sauditi, e altri 2 degli Emirati Arabi, 1 dal Libano e dall'Egitto, tutti i paesi non toccati da queste misure se vogliamo andare all'11 settembre. Ma la cosa che vorrei lanciare in maniera anche provocatoria è questa: ho fatto la lista delle società che sono tra virgolette in sorte, e mi riferisco appunto a quelle che ho citato, ma la domanda è un po' semplice. Google stessa vuole stanziare 4 milioni di dollari per gli immigranti. Goldman Sachs critica il decreto, non lo sosteniamo. Numero uno Lloyd Blankfein. La domanda è molto facile, e cioè, tutto vero, anche a noi sembra che la misura di Trump sia quantomeno così bislacca, però l'obiezione che uno potrebbe muovere è la seguente, e cioè proprio i grandi gruppi, abbiamo citato alcuni nomi, che sono gli alfieri della globalizzazione, difendono diciamo, l'accoglienza, non a caso nella Silicon Valley ci sono tantissimi ingegneri stranieri, vivono a San Francisco, solo a San Francisco 250.000 musulmani, e gli Stati Uniti hanno accolto solo 12.000 rifugiati siriani contro i 300.000 della Germania, pur avendo responsabilità molto grosse nella precedente amministrazione per quello che è successo in Siria, nelle famose primavere arabe, in Libia, no, cioè la politica estera di Barack Obama, l'abbiamo detto più volte, è stato un disastro quantomeno. Però tutti questi alfieri della globalizzazione e del libero scambio, del libero, diciamo, dell'accoglienza, sono anche le stesse società, penso soprattutto a quelle della Silicon Valley, che poi non hanno problemi a pagare il fisco laddove è più conveniente. Cioè la globalizzazione per loro, Nike, adesso con massimo rispetto per la Nike, ma è stata coinvolta anni e anni fa in polemiche furibonde per l'utilizzo o meno di sfruttamento della manodopera, poi ha risposto, vi ha rimediato, ma non ha nessun problema a produrre laddove le merci costano, il lavoro costa meno, e poi a rivendere a prezzi non certo, diciamo, da produzione in paesi in via di sviluppo. Cioè le stesse multinazionali che stanno alzando gli scudi sulle misure di Trump sono quelle che però hanno fatto, in qualche modo hanno usato e delle volte abusato di questa globalizzazione. Pensiamo a dove pagano le tasse in Europa, producono un fatturato e utili in uno stato, vanno a pagare le tasse dove più gli è conveniente. Tutto legale? Oddio, insomma, ci sono anche procedure e inchieste in corso. Allora, attenzione, perché difendere l'accusa che potrebbe essere mossa facilmente, sì, loro difendono la globalizzazione perché dalla globalizzazione, da quel tipo di globalizzazione, hanno i massimi vantaggi. Vanno a produrre dove la manodopera costa meno e vanno a pagare tasse dove i governi sono più accoglienti e meno rigorosi sulla politica fiscale. E quindi facile difendere gli immigranti quando poi tu sei il primo, tra virgolette, sfruttatore della globalizzazione. Lo dico perché immagino che sia un'obiezione che non so se farà Trump, ma faranno molti sostenitori della linea di Trump, ed è giusto affrontare le varie ipotesi. In apertura invece parleremo anche dell'economia italiana, oltre che appunto delle banche dopo, dell'andamento dello spread, di quello che sta capitando su Unicredit. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, però stiamo sul tema che poi sarà il tema della seconda ora del programma, perché alle misure di Trump poi ci sono reazioni anche e soprattutto di politica internazionale, penso all'ONU ma non solo, Angela Merkel, ma insomma alle misure di Trump sono dedicati 100 secondi di Radio 24, sole 24 ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il silenzio è d'oro, ma evidentemente Donald Trump ancora non è pratico con le regole non solo della politica, ma persino quelle dei mercati. In un momento di incertezza per la riunione della Federal Reserve, per il passo dell'economia mondiale, l'esplosione delle polemiche sui controlli all'immigrazione, l'annuncio di misure restrittive sull'immigrazione, soprattutto da quei paesi considerati a rischio di terrorismo, ha infatti provocato un nuovo innalzamento di tensione anche e soprattutto sui mercati finanziari, dove già la riunione della Federal Federal Reserve e le incertezze sul passo dell'economia e soprattutto dei tassi di interesse avevano creato le condizioni per un ritiro di posta dai mercati, se non una vera e propria correzione che molti auspicano, visto ormai i record brucianti che sono stati messi a segno nelle ultime settimane. A beneficiarne comunque è l'oro, l'oro è il bene rifugio per eccellenza, dopo una partenza d'anno già molto forte, considerato soprattutto il rallentamento di dicembre, quando ancora non si capiva quale sarebbero state le politiche di Trump, beh, si è rimessa a correre, più o meno allo stesso guadagno che presenta l'indice Standard & Poor's dall'inizio dell'anno, ma alle spalle un balzo del 20% nei 12 mesi precedenti. E bene rifugio nei momenti di paura? In parte, sicuramente, però in questa fase proteggere il capitale dai rischi delle evoluzioni della politica e soprattutto dalle incertezze di quelle che saranno le elezioni dell'Europa e degli altri paesi, soprattutto la Cina, alla svolta Trump, beh, questi sono segnali che confermano l'importanza della prudenza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora sì, tra l'altro tra chi si è schierato contro Trump c'è anche Uber, e va esattamente, diciamo, nella riflessione che proponevo. Va benissimo dal punto di vista del principio, ognuno può pensarla come vuole, e personalmente ritengo che sia quanto di più populista poteva essere fatto da Donald Trump, visto il numero di persone e viste le responsabilità degli Stati Uniti nel Medio Oriente, ricordiamoci anche Bush figlio e il casino che ha scatenato con una guerra inutile, falsa, su pretesti falsi, dimostrati falsi, contro l'Iraq di Saddam Hussein. Questa idea tutta americana di Barack Obama e di Hillary Clinton che si possa esportare democrazia, però non hanno mai voluto applicare nel Centro America o nel Sud America l'esportazione di democrazia quando è il loro giardino di casa. Per cui che sia stata una politica fallimentare dal punto di vista della politica estera lo dicono i fatti, non lo dice sottoscritto, da Bush figlio in poi. E che il Medio Oriente sia un caos da quando si è messo in mezzo l'America, ripeto, seconda guerra in Iraq e poi il resto, lo dicono i fatti. Però per non essere sempre così con questo politically correct che ha rotto le scatole e non mi sembra così praticato in questa radio, anche perché è un grande atto di ipocrisia, diciamo anche che chi sta insorgendo è anche l'alfiere della globalizzazione pro domo sua, cioè andare, ripeto, a produrre dove il costo è più basso, andare a pagare tasse dove il carico fiscale è più basso, perché lo puoi fare, perché sei una multinazionale. Uber stessa, non penso che quando Uber si scaglia contro Trump, penso che forse faccia quasi più un piacere a Trump che non a se stessa, perché insomma sono gli esempi di chi tutta questa ricchezza poi sul territorio non l'ha generata molte volte e ha atteggiamenti ambigui. Guardate che la vicenda dei grandi colossi della dot economy in Europa sulla parte fiscale grida vendetta, una vendetta vera. E comunque vi arriveremo. Restiamo con le notizie in breve invece per quello che riguarda, e tra l'altro anche la borsa sente il peso di Trump. Secondo le spiegazioni che ci vengono date e che leggiamo sulle agenzie, il decreto sull'immigrazione e le tensioni che sta creando, diciamo, vanno anche a ripercuotersi sulla borsa stessa. L'ONU ha detto che il bando di Trump sugli islamici è illegale e meschino, dilaga la protesta. In Gran Bretagna c'è 1 milione di firme per raccolte per annullare la visita di Trump con Theresa May. E poi c'è tutto il ragionamento sul fatto che l'economia americana da sempre sia cresciuta grazie al melting pot, quindi a questa grandissima capacità di includere, selezionandoli anche, ma di includere, cioè che l'immigrazione sia, diciamo, parte degli Stati Uniti da quando sono nati. Però attenzione anche alle anime belle. Andiamo ai dati di casa nostra, l'inflazione a gennaio più 1,9% in Germania, è ai massimi dal 2013, la crescita comunque è lievemente sotto le attese. La Germania, quanto ad export, nel 2016 è tornata ad essere il primo esportatore al mondo, sorpassando la Cina, nel senso che il saldo della bilancia delle partite correnti dovrebbe ammontare a circa 200 97 miliardi di dollari contro la Cina che ne ha 245 miliardi. Il surplus commerciale tedesco sale così all'8,6% dopo l'8,3% del 2015. E faccio notare che l'Unione Europea ritiene ottimale il 6% sul PIL, la Germania è ampiamente sopra, e quando si fece l'area euro si disse non ci può essere un paese che esporta e un altro che non riesce a produrre un bullone, a esportare un bullone. Devi avere un controllo sui deficit, e quindi da lì il 3% fino allo zero, portando a portare allo zero, e però occorre che gli squilibri non siano troppo forti, quindi non ci può essere un paese che di fatto guarda fuori dall'Europa perché tutto l'export va lì. Faccio notare che la Germania continua a aumentare la parte di surplus commerciale nonostante l'Unione Europea ritenga il 6% quello sostenibile per lungo tempo. Dall'8,3% del 2015 è passata all'8,6%. Allora, ancora per quello che riguarda le notizie che riguardano l'Italia, invece lo spread è salito di nuovo leggermente, ma è salito a 184 punti, il rendimento è al 2,32%. La Commissione Europea non ha ricevuto nessuna richiesta di rinvio per quello che riguarda la lettera italiana, che deve arrivare entro mercoledì, quindi arriverà mercoledì la lettera sulla correzione chiesta da Bruxelles. Moscovici ha detto che l'Unione Europea non è contro l'Italia e l'Italia non è contro l'Unione Europea. Staremo a vedere cosa scriverà il nostro paese, quindi dove troverà i 3 miliardi e 400 milioni chiesti dall'Europa come correzione sul deficit. E ancora, per quello che riguarda, mi chiedete, il rapporto di cambio, no, oggi è poco mosso nonostante queste tensioni. L'euro su dollaro a quota 1,0687. Allora, ripartiamo dal tema delle sofferenze delle banche, che ancora le prese con le sofferenze bancarie e della loro difficoltà nel frattempo a erogare credito alle imprese, perché ne parliamo con chi, diciamo, non dovrebbe essere, non dovrebbe avere questa funzione, ma in realtà ci sta pensando. Allora sì, si dice, a proposito di investimento nell'economia reale, chi ha disponibilità di cassa, senza voler storcere un euro a nessuno, però sappiamo le difficoltà che hanno le banche a finanziare l'economia reale del paese finché non si libereranno della zavorra sofferenze, e ne parleremo anche oggi. C'è un dato però, c'è la cassa della Croce Edilizia delle partite IVA e di molti contribuenti italiani, mi riferisco ai commercialisti di questo paese, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, che in realtà ha liquidità e ha una liquidità anche importante, non che gliela vogliamo estorcere appunto, ma vorremmo capire come chi, diciamo, ha un ruolo attivo nella consulenza, chiamiamolo in senso lato consulenza nei confronti del contribuente, come investe e perché investe in alcune aree attività. Grazie quindi a Walter Anedda, neopresidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, e benvenuto. Grazie a voi. Dicevo neopresidente perché lei è stato nominato poco prima di Natale, quindi diciamo di fatto alla sua prima intervista pubblica completa. Senta, Reda, andiamo subito al punto, poi una domanda gliela faccio anche sul ruolo dei commercialisti per come lei lo vede, ma venendo a chi può finanziare e che cosa, voi avete, se ben ricordo, circa 1 miliardo di euro di liquidità che come casse di previdenza e commercialisti dovete investire ogni anno. Verissimo. Allora, mi sembra che i rendimenti dei bot BTP, per quanto leggermente risaliti, non garantiscano quel 2,3% di rendimento che voi avete promesso ai vostri associati. Dove li mettete? Azioni, immobili e quant'altro? E se pensate di metterli anche sul territorio, senza, immagino, sostituirvi al mondo bancario? Beh, partiamo da un presupposto. Primo, chiaramente la ricerca del rendimento risulta essere importante, ma correlata anche a quello che deve essere un adeguato livello di rischio, non fosse altro che noi chiaramente facciamo previdenza di primo pilastro. Quindi attenti a investire con rendimento, ma a far sì anche che non mettere a rischio il nostro capitale. Per quanto riguarda poi le tipologie di investimento, è chiaro che avendo a disposizione 1 miliardo di euro da investire, la necessità di articolare, di il livello di investimento è notevole. Una parte importante può svolgerla questa volta l'economia reale, ma per due ordini di motivi. Il principale, io non dimentico di essere il presidente di una cassa di dottori commercialisti. Il dottore commercialista è per antonomasia il consulente della piccola e media impresa. La stragrande maggioranza della nostra economia di sviluppo industriale e commerciale è caratterizzata dalla piccola e media impresa. Se io oggi favorisco l'investimento nell'economia reale, quindi in modo particolare, se vogliamo, anche nella piccola e media impresa, io indirettamente sto favorendo i colleghi. E su questo non ci sono dubbi, ma come fate a scegliere l'investimento? Cioè, voglio dire, se non voglio difendere le banche, però le banche dicono, attenzione, non è facile valutare il business, delle volte si sono dimenticate anche come si valuta e sicuramente sono gravate dalle sofferenze bancarie, quindi si sono scottate chi lo ha fatto in maniera onesta, con crediti poi andati in sofferenza. Che cosa vuol dire poi concretamente investire in economia reale? Perché se io fossi un vostro associato vi potrei dire, vabbè, ma compro una quota di un bel fondo che ha garantito certi rendimenti e piantiamola lì. Allora, premesso che chiaramente il cosiddetto track error, così viene definita perlomeno quella che la storicità di rendimento o comunque di performance di un altro fondo non garantisce in realtà, noi partiamo dal presupposto che investire in economia reale e in generale investire in quelli che sono definiti investimenti alternativi, unicamente per distinguerli da quelli tradizionali, chiaramente comporta avere competenze. E aggiungo che queste competenze non necessariamente, anzi non albergano tutte in cassa previdenza. Noi abbiamo soltanto la capacità di avere una strutturazione interna che ci permette di selezionare in maniera attenta, facendo dei ragionamenti di beauty contest anche tra i diversi investitori che agiscono in determinati mercati, questo può essere il mercato delle startup piuttosto che il mercato delle commodity piuttosto che altro, e questo ci permette tutto sommato di avere una buona capacità di selezionare, perlomeno sino a oggi i dati che abbiamo anche storicizzato questo dicono. Ma insomma, di questo miliardo di liquidità, lei che quota immagina poter andare all'economia reale, a finanziare delle startup o degli incubatori? Adesso, gli incubatori poi hanno tempi anche di ritorno sull'investimento molto lunghi, o perlomeno lunghi, non so se molto, ma sicuramente non brevi. E quindi dove li mettete? Allora, in che quota? Allora, per quanto riguarda il discorso dei cosiddetti incubatori, è verissimo che hanno tempi lunghi, ma è tanto vero che noi siamo un ente di previdenza e quindi non è certo il tempo che ci manca, insomma siamo abituati ad attendere. L'investimento nell'incubatore, nella startup, è caratterizzato da, è vero, un livello di rischio sufficientemente elevato, ma questo comporta anche il fatto che chiaramente ciò che andiamo a investire in questa tipologia deve essere assolutamente una piccolissima parte della nostra realtà finanziaria. È il cosiddetto peperoncino che si mette spesso su un piatto di pasta, insomma. Ecco, ma che quota di questo miliardo la immagina? Ma allora, stiamo ragionando su quote comunque minimali, siamo attorno al 5-10% previsti in asset allocation, quindi comunque rispetto all'ammontare complessivo siamo ancora su valori bassi. E le dico per inciso che noi abbiamo una rubrica ogni venerdì sulle startup che affianchiamo alla nostra poco invidiabile classifica, quasi mai, e vado a memoria, i casi che abbiamo portato, che ormai sono decine e decine, hanno avuto inizialmente un finanziamento bancario o hanno avuto una spin-off, diciamo, dall'attività di ricerca universitaria o in alcuni casi anche dell'ente regionale o dell'ente locale che aveva creato una società per lo sviluppo di startup, quasi mai dalle banche. Lo dico perché, se volete, noi portiamo startup più o meno di successo, cioè che hanno raggiunto break-even o sono quasi a break-even, perché non portiamo casi. Lo dico perché lì mi sembra che ci sia ampio margine se qualcuno ha prospettive di medio termine. Venendo però al resto del ragionamento, nel momento in cui lei mi dice noi non possiamo dimenticarci che siamo, diciamo, il nostro core business, la nostra attività principale è fare consulenza alle piccole e medie imprese. Qui chiedo più al dottore commercialista che al presidente della cassa previdenziale. Insomma, anni fa si ragionava seriamente del futuro della vostra professione, che ripeto è croce delizia per noi contribuenti, ma assieme a altre professioni, non me ne abbiano i notai e non me ne abbiano anche alcune forme, diciamo, di altre rente di posizione in questo paese. Però siete in un mondo perfetto, in un mondo migliore. Io non ho più bisogno del notaio per una cosa, del commercialista per un'altra, e poi ho l'avvocato che magari farà diritto tributario o fa diritto commerciale, e quindi il mondo migliore per un piccolo imprenditore sarebbe poter avere come appoggio uno studio, un soggetto giuridico che fa tutte queste cose assieme. Sappiamo che le banche delle volte spesso non riescono a fare una consulenza a 360 gradi, possono fare, quando sono brave, una consulenza sulle strategie aziendali, ma difficilmente faranno una consulenza fiscale come riuscite a fare voi, difficilmente faranno una consulenza legale e quant'altro. E allora perché questo processo però si è fermato? Perché prima della crisi sembravate tutti pronti a creare questi studi multitasking, in cui io andavo e trovavo uno sportello, così come si dice lo sportello unico per le imprese nel caso dei servizi che devo offrire alla pubblica amministrazione. Beh, partiamo da un punto. Uno degli strumenti, per esempio, che maggiormente si ipotizzavano per poter avviare questo processo di aggregazione interprofessionale erano le società professionisti. Il dato che già si evidenzia sul mercato della percentuale di società tra professionisti che vengono alla luce è veramente bassissimo. Si innestano una serie di elementi causali. Uno, per esempio, sembra paradossale, ma uno è che ancora oggi non si conosce esattamente quello che è il regime fiscale delle società tra professionisti. Da una parte l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dall'altra l'interpretazione del Consiglio Nazionale di Dottori Commerciali. Sembrano piccole cose, ma chiaramente quando si fanno valutazioni sul futuro, sull'elemento strutturale attraverso il quale andare a identificare il futuro di una professione, anche queste piccole cose contano. Su questo credo che però una grossa mano, adesso al di là dell'aspetto prettamente giuridico, possono darlo anche gli enti di previdenza. Adesso mi rimetto la giacchetta da presidente della cassa per dire: l'ente di previdenza può dare una grossa mano in una fase sia di startup dell'attività professionale sia in un'attività di aggregazione sui professionali. Cioè... Allora sì, ho capito benissimo, devo andare in meteo pubblicità. L'ultima domanda che ho per lei, perché ce la ricordano anche gli ascoltatori però, Anedda, è lo stato dell'arte delle imprese che voi avete come clienti, le piccole e medie imprese, visto il ragionamento che si faceva in apertura di questa intervista. Noi vediamo la difficoltà e soprattutto la divaricazione tra chi è export oriente, cioè va verso l'export, è una quota importante di export, e chi è rimasto sul mercato interno. Non positiva, devo essere sincero, non positiva. Qualcuno dice speriamo di vedere la luce alla fine del tunnel, qualcuno dice speriamo che quella luce non sia il treno che ci sta venendo contro. Questo è il dato di fatto, ossia per quanto si cerchi di portare avanti con ottimismo l'attività in questo paese, è indubbio che le difficoltà di riemergere sono ancora assolutamente tante. L'Italia è stretta e lunga, ma per una volta c'è una cosa che accomuna, credo, veramente tutti i colleghi, una crisi che è veramente ormai particolarmente sentita, a prescindere dalla regione in cui uno risiede. Sì, non era questo che immaginavamo come unità d'Italia, l'unità d'Italia attraverso la crisi. Comunque grazie, in bocca al lupo anche al presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, Walter Anedda. Grazie a voi. Andiamo su meteo, pubblicità, poi la borsa e gli altri temi del programma. Parleremo di Unicredit da un lato, e poi la seconda mezz'ora tutta sulle reazioni della comunità economica e finanziaria delle multinazionali alle decisioni di Trump degli ultimi due giorni. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti, arriviamo a Trump e alla posizione che elencavo in apertura sulle multinazionali. Ripeto, perché vedo alcuni che tutti la possono pensare come vogliono, ci mancherebbe. Ho detto solo che se dovessi fare l'avvocato del diavolo, direi che vedere Uber, Apple, Netflix, Starbucks e quant'altro, Nike, la battuta che verrebbe facile, beh, certo che voi siete per contro Trump, perché della globalizzazione avete utilizzato le parti positive, ma anche le parti che invece in questo momento rappresentano una criticità. Ho fatto l'esempio dove si pagano le tasse rispetto a dove si fattura, ho fatto l'esempio dove si va a produrre rispetto a dove si vende, ho fatto l'esempio dei prezzi, e molti obiettano, ho capito, vai a produrre dove costa meno, ma noi non lo vediamo nei prezzi, per cui il fatto che questi grandi colossi, giustamente perché la libertà di poter far arrivare negli Stati Uniti un ingegnere siriano è quello che rende più competitiva un'economia, non c'è dubbio su questo. Ho detto solo che vedere l'insorgere dei grandi colossi rischia paradossalmente di essere quasi un boomerang nei confronti di chi insorge e di avvantaggiare Trump, perché una riflessione non politically correct, non da mezza vergine e, diciamo, e non ipocrita è anche dire sì, certo che la difendi tu, così come ho visto Goldman Sachs, avete creato la più grande... Goldman Sachs no, ma ha fatto parte delle banche d'affari. Vi siete avvantaggiati in tutti i modi di questa globalizzazione, è chiaro che voi dite di no alle misure di restrizione di Trump. Il problema è che hanno il consenso della parte che l'ha votato e forse anche di chi non l'ha votato. Questo è lo stallo in cui siamo. Però non diamo solo, diciamo, brutto Trump, ho capito. Poi però un mese fa criticavamo le multinazionali in Europa che vanno a pagare tasse dove meglio gli conviene, che è una cosa inaccettabile. Tu fatturi in Italia, io sono un artigiano, devo pagare tutto in Italia, e tu invece vai in Irlanda, vai a Dublino perché sei grosso, sei grande e fai che cavolo vuoi. Andiamo avanti con i nostri temi invece e parliamo di borsa e poi di UniCredit. La borsa è la peggiore. Milano oggi perde quasi il 3%, mentre Parigi perde l'1,14%, Francoforte l'1,12%, Londra meno 1%, Dow Jones meno 0,90%, euro su dollaro a 1,06, UbiBanca meno 6,80, Unipol meno 5,70, poi UniCredit di cui parliamo meno 5,5, ma perde anche Saipem il 6,70, Tenaris il 5, BPerBanca il 4,80, come Unipol sai, e Banco BPM perde il 4%, cala poco solo Estima Microelectronics che perde lo 0,40%. Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Al di là di UniCredit, le altre banche e Saipem? Beh, diciamo che in generale sulle banche pesano le parole del capo della vigilanza BCE Daniel Nui, che ha sottolineato in un'intervista che le banche italiane devono fare ancora molto sul fronte dei crediti deteriorati, quindi sull'alleggerimento dei portafogli dalle posizioni in sofferenza che pesano ormai da anni sui bilanci delle banche. Questo ha messo sotto pressione in particolare le banche che stanno per andare sul mercato a chiedere nuovo capitale, a partire da UniCredit, che un minuto fa tra l'altro ha annunciato le stime sui conti 2016, di cui immagino parlerete dopo. Comunque si preannuncia una perdita record da 11,8 miliardi, e UbiBanca, che ricordiamo a breve dovrà andare sul mercato per chiedere 400 milioni in relazione all'acquisto di tre delle quattro banche ponte nate dalla risoluzione dei quattro istituti dell'Italia centrale. In generale quindi tutto il settore bancario oggi è stato tra i più colpiti dalle vendite. Allora, mentre oggi abbiamo scoperto, ho saputo che Luxottica ha siglato un accordo per comprare in Brasile, pagando da 110 milioni di euro, Ópticas Carol, penso essendo brasiliana. Vedo altri degli energetici, dicevo Saipem, Paolo, ma non è l'unico, oggi debole tutto il settore. Sì, esattamente, il prezzo del petrolio è Eni meno 2,60, non l'ho citata. Snam meno 2,80, prego. Esattamente, in calo di circa un punto percentuale il petrolio, e ne hanno risentito tutti i titoli del comparto. Sul Saipem inoltre c'è il giudizio negativo di una banca d'affari, questa volta è Banca IMI, che ha tagliato la raccomandazione invitando gli investitori a ridurre l'esposizione sul titolo, e questo naturalmente ha trascinato al ribasso le azioni e quelle di tutto il comparto energetico. Allora, benissimo, invece vado a titoli più sottili, tra i migliori e i peggiori. PRL più 12,5%, no, farmaceutica. Qui c'è un anestetico dentistico proprio negli Stati Uniti come vendita, no? Esattamente, ha annunciato l'aggiornamento sulle vendite dell'anestetico Orablock, che hanno registrato un incremento del 30% annuo e che hanno avuto quindi molto successo. La società nel frattempo ha dovuto lanciare un aumento di capitale per proprio garantire la continuità aziendale. Questi dati sembrano indicare un futuro migliore. Il titolo oggi ha festeggiato con un più 12,56%. Allora, peggiore TAS meno 22, Innovatech meno 22, Full Six meno 15, Dimen Group meno 14, CHL meno 13, Fidia meno 9, fronte opposto Sintesi più 18, ROS più 17, appunto PRL più 12, Digitouch più 8%. Grazie intanto a Paolo Paronetto. Noi dopo il traffico ci concentriamo su UniCredit, che chiaramente anche lei subisce la dichiarazione di Noyer, del membro della Banca Centrale Europea, ma anche le ispezioni della Banca Centrale Europea stessa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Allora, Unicredit, ispezione della Banca Centrale Europea, rilievi sul capitale, piano con rimedi, e poi il conto 2016 perderà 11,8 miliardi. Tra l'altro scopriamo che ha accantonato Unicredit 12 miliardi e 800 milioni di euro per contenziosi di natura giudiziaria, per rischi giudiziari, e altri 480 milioni per rischi jus lavoristici. E tanta roba. Però quello che sorprende forse sono i conti e le conti sul 2016, al di là dell'aumento di capitale. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Vai Marco. Ma sì, diciamo che la chiusura in rosso, un rosso pesante dei conti Unicredit era quantomeno preventivabile, nel senso che presentando il piano industriale Mustia a dicembre aveva annunciato che i conti del quarto trimestre avrebbero incamerato 12 miliardi di svalutazioni one off, cioè appunto straordinarie, in particolare evidentemente sui crediti che da soli valgono 8 miliardi di svalutazioni. I dati approvati oggi dal CDA, dati preliminari, in realtà sono più pesanti del previsto, perché computano 1 miliardo di svalutazioni in più, sempre a valere sul quarto trimestre, quindi sul totale dell'anno, in particolare perché a quanto pare la banca ha deciso di svalutare quasi integralmente, ad esempio, l'investimento in Atlante, quindi circa 500 milioni qualcosa in più, che probabilmente sono evidentemente spariti dal bilancio Unicredit perché passano a conto economico in quanto svalutati, e altre voci straordinarie. Al 30 settembre, non ricordo esattamente, comunque il bilancio, il progressivo del conto economico di Unicredit era positivo di 1,5 miliardi largo circa, con queste col quarto trimestre che si chiude con 13 miliardi di svalutazioni, evidentemente, cioè di perdite, evidentemente il computo complessivo dell'anno sarà di 12 miliardi qualcosa, insomma, negativo. Però diciamo che va sul mercato a chiederne 13, e quindi, salvo qualche giorno di sfasamento, la situazione tornerà sotto controllo. Ecco, gli ispettori della Banca Centrale Europea, diciamo, sono un aspetto più marginale nella giornata, no? Ma insomma, diciamo che stamattina la banca, sempre in vista dell'aumento, ha pubblicato uno dei tanti documenti che verranno sfornati da qui ai prossimi giorni, quando inizierà l'aumento, 1000 pagine in cui di fatto si mette in fila tutto quanto, comprese queste 4 ispezioni, che sono, diciamo, routine per tutte le banche, ma è anche vero che, da quello che la banca stessa ha scritto, si tratta di ispezioni nel corso delle quali la BCE ha evidentemente riscontrato una situazione molto, diciamo, una malattia piuttosto avanzata. Quindi cosa si può dire? Che meno male che c'è l'aumento, perché questi 13 miliardi, ai quali vanno giunti 6 miliardi circa che la banca ha incassato dalle cessioni, quindi complessivamente la manovra vale quasi 20 miliardi, parliamo di una bella finanziaria. È come una manovra finanziaria dell'Italia. Anche di un certo peso. Ecco, quindi senza questo aumento indubbiamente la situazione della banca sarebbe tutt'altro che stabile, non a caso la banca stessa parla di un rischio di risoluzione. Ecco, visto che me lo suggeriscono anche gli ascoltatori, hanno ragione, di tutto abbiamo ragionato adesso, tranne che del tema che ha tenuto banco appassionatamente per una settimana. Mi riferisco alle generali, Intesa da San Paolo, alla quota d'azionista di maggioranza relativa di Unicredit dentro Mediobanca, che a sua volta è l'azionista di maggioranza relativa delle generali. Si è tutto placato, o diciamo sono due fronti che si stanno scrutando un po' come le guerre napoleoniche, ma ancora, diciamo, col binocolo? Ma i consulenti sono al lavoro, come abbiamo scritto anche noi ieri sul giornale. L'impressione è che probabilmente di qui a qualche giorno capiremo se tutto finisce qua, quindi con una serie di schermaglie, dichiarazioni, attacchi e difese che hanno dissuaso entrambi ad andare avanti. L'impressione è che comunque qualche altra puntata ci sarà, e se vogliamo anche gli elementi aggiuntivi che arrivano oggi su Unicredit dimostrano che in ogni caso qualcosa sta per succedere, perché una banca che comunque ha bisogno di 20 miliardi per far tabula rasa dimostra che l'assetto, così come era prima, non reggeva. Difficile pensare che oggi Unicredit stia pensando come priorità a generali, mediobanche, eccetera, eccetera, ma è anche vero che risanata completamente con questi 20 miliardi, magari qualche energia in più per dedicarsi a questi dossier ce l'avrà. Allora, grazie intanto a Marco Ferrando, poi adesso c'è il GR24, poi andiamo appunto sul tema, tema antichisce, c'è cioè chi mi dice che sbaglio e chi dà ragione, non importa. Il tema non è, come scrive un ascoltatore, voglio vedere quando l'operaio americano pagherà le scarpe Nike il 30% in più. Questo è il tema che riguarda il Buy American and Hire American, cioè Trump che vuole che fare il reshoring, il ritrasferimento delle produzioni, soprattutto si è presa con Messico, nel suolo americano. E abbiamo già messo in guardia dal rischio che questo poi vada a svantaggio della classe bassa, medio-bassa, che ha votato lo stesso Trump, nel senso che poi può portare inflazione, mi può dire però porterà occupazione, vedremo se la porterà lì. Sono sempre difficili i processi guidati dall'alto di reshoring. Qui stiamo dicendo un'altra cosa, e cioè l'insorgere delle grandi multinazionali nei confronti delle decisioni di Trump sui alcuni paesi, tra cui i siriani, la Siria, non rischia di essere un boomerang stesso, visto che queste grandi multinazionali si sono ampiamente avvantaggiate, a mio avviso anche troppo, di alcune fessure, porte, lasciate aperte della globalizzazione. Ne parliamo dopo il GR24. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. 30 secondi della vostra attenzione, per favore, perché dal 1 febbraio Cuore Denari inaugura La Salute Vien Parlando. Sottotitolo: I mesi della prevenzione. Un viaggio con gli specialisti di Humanitas lungo tutto il corpo umano per imparare a investire in salute. E per ottenere rendimenti sicuri. Ascoltateci ogni giorno allora, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12. Su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, riepilogo, tra virgolette, le puntate precedenti. Il presidente americano Donald Trump ha sospeso per decreto il programma di ammissione dei rifugiati, uno tra l'altro dei più ambiziosi al mondo per accogliere le vittime dei conflitti. Fu creato nel 1980 dal Congresso statunitense, che ha permesso, è un programma che ha permesso in questi anni di accogliere circa 2,5 milioni di persone, diciamo dagli anni 80. E quindi blocca per 4 mesi e congela per 3 mesi l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di 7 paesi musulmani, ossia Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Ora, il tema, detto così, è di politica estera e di rapporti internazionali, anche perché molti hanno fatto notare che sono esclusi paesi come l'Afghanistan, l'Arabia Saudita, il Pakistan, da cui provenivano molti attentatori anche dell'11 settembre, penso all'Arabia Saudita. Altri fanno notare che è molto difficile sostenere che con il governo iracheno ragioni in termini di intervento militare, lo ritiene un alleato e poi però non gli fa entrare i suoi cittadini, non è affidabile come governo. Il punto però di carattere economico è un altro, ed emerge dalla presa di posizione di importantissimi colossi americani contro quella che è la decisione di Trump. Al di là della manifestazione, al di là del milione di firme raccolte in Gran Bretagna per boicottare, o meglio per chiedere a Theresa May che non accolga Trump in visita ufficiale, Londra però ha detto non siamo d'accordo con la politica di Trump in questo caso, ma la visita resta confermata. Goldman Sachs, Lloyd Blankfein ha criticato il decreto, non lo sosteniamo. E poi Google stanzia 4 milioni di dollari per gli immigrati e si dichiara contraria al provvedimento di Trump, quindi una levata di scudi non solo a parole. Continuo con Apple, che ha detto il numero uno Tim Cook non esisterebbe senza l'immigrazione, Steve Jobs era figlio di un immigrato siriano. E poi Netflix, che dice: le misure di Trump colpiscono i dipendenti di Netflix in tutto il mondo, lo scrive il numero uno dell'azienda Reed Hastings. Ancora, leader di Microsoft, Satya Nadella, che è di origini indiane: ho consapevolezza dell'impatto positivo che l'immigrazione ha avuto nella nostra azienda. Starbucks, che annuncia che nei prossimi 5 anni assumerà 10.000 rifugiati, e rispondo in questo modo con una dichiarazione del numero uno Howard Schultz proprio all'intervento, all'azione, al provvedimento di Donald Trump. E Uber, il numero uno, il cofondatore Travis Kalanick, dice: è un provvedimento sbagliato e ingiusto, dopo che tra l'altro una valanga di clienti hanno cancellato l'app dai loro smartphone. Tutto bene, molti mi scrivono: mi scusi, ma che c'entra attaccare multinazionali se stanno facendo un'operazione giusta sui diritti? Ho detto solo una cosa. Benissimo, sono però la critica da avvocato del diavolo, dovessi fare l'avvocato di Donald Trump in questo momento, direi: benissimo, sono i nomi che ho citato gli esempi, i paladini di una globalizzazione che a loro è convenuta, ma non è convenuta diciamo la classe media dei paesi occidentali, in cui avanzano prepotentemente movimenti di contestazione della globalizzazione. Sono molti di queste multinazionali che quando vengono in Europa pagano le tasse a Dublino, anche se poi, o in altri, diciamo, luoghi vantaggiosi fiscalmente, anche se poi fatturano in Spagna, in Italia, in Germania. La Nike è stata coinvolta anni fa in polemiche molto feroci sull'utilizzo di manodopera e vanno a produrre in quei paesi e non si nota una differenza di prezzo, diciamo, nei mercati poi dove vendono. Cosa voglio dire? Che a mio avviso rischia di essere la levata di scudi di queste multinazionali quasi un boomerang, al di là che uno possa dire: beh, ma se uno lo pensa come sua coscienza, fa bene a dirlo. Sì, però diciamo, tutta questa levata di scudi avrebbe più senso se venisse fatta, per esempio, dalle medie aziende americane che vivono sul mercato interno. Giro la riflessione da un lato a Mario Pratero, corrispondente sul 24 da New York. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. E dall'altra al professor Massimo Teodori, che è un grande conoscitore degli Stati Uniti e ha insegnato proprio come storia e istituzione degli Stati Uniti alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Perugia. Buonasera professor Teodori. Buonasera, buonasera. Allora, Mario, non so se hai capito l'obiezione, nel senso, nessuno sta contestando la presa di posizione, però quando vedi che gli alfieri della rivolta contro Trump sono multinazionali che, diciamo tutto, hanno avuto tutti i vantaggi possibili da questa globalizzazione, per alcuni molto spinta, che ha impoverito classi medie, non rischia di essere un boomerang? O non è la battuta: è troppo facile per voi, tanto producete in un posto, vendete in un altro e pagate le tasse in un altro posto ancora? Allora Sebastiano, sono secondo me due cose diverse. Una cosa è un provvedimento che impedisce a persone che hanno la carta verde di entrare nel nostro paese, di entrare in America, diciamo, no? Negli Stati Uniti d'America, e un'altra cosa è combattere gli eccessi della globalizzazione. E su questo sono d'accordo con te, tanto è vero che sul piano economico e su quello commerciale Donald Trump sta portando avanti un'azione che vuole cercare, poi vedremo fino a che punto si spingerà, ma quantomeno vuole cercare, almeno sul piano della cosmesi, di recuperare manifatturiero e posti di lavoro in Italia. Apple, che ha già dichiarato che farà degli investimenti, attenzione, perché l'high tech sul fronte della globalizzazione si è mosso. Un'altra cosa è intervenire con un decreto che crea sul piano concreto e pratico un paradosso, e cioè quello stesso paese che ha autorizzato un visto a una persona dopo che è stata ispezionata, vetted, approvata per venire negli Stati Uniti, quello o quella arriva e viene arrestato da quello stesso paese. Si creano dei presupposti che non appartengono alla tradizione, alla cultura americana. Allora, Donald Trump può cambiare le regole con cui fanno le ispezioni, con cui concedono i visti, vogliono, può anche congelare, però da un certo giorno in avanti. L'errore che ha fatto, secondo me, influenzato dai Steven Bannon, cioè da questi alfieri dell'alt-right, è stato quello di buttarsi in avanti. E lo ha fatto magari anche per far vedere alla sua base che lui tiene fede alle promesse, magari questo putiferio che si è scatenato lo aiuta. La reazione dell'high tech è una reazione che è più legata, se vuoi all'immigrazione dei cervelli, è legata al fatto che loro hanno dei dipendenti all'estero che devono viaggiare. Allora, se tu vai a toccare con questa cosa gli interessi del grande mondo, adesso si parla dell'high tech perché sono quelli che fanno più notizia, ma del grande mondo imprenditoriale americano che ha uffici in tutto il mondo, deve fare venire dei loro dipendenti e quelli vengono bloccati e quindi rischi di inceppare anche la macchina economica americana, si mettono in movimento dei danni sia concreti che dei principi. I cervelli sono importantissimi per l'America e quindi anche qui tu hai citato alcuni nomi. Sì, no? Mario, mi viene facile la battuta, però Trump non ha vinto, diciamo, parlando ai cervelli, ha vinto parlando alla pancia dell'elettorato americano, quello che ha torto o ha ragione. Io non sto dicendo che sia vero. E tra l'altro sì, mi sembra anche molto, molto Trump, utopistico. Trump... un attimo, Mario, immaginare il reshoring, cioè riportare le imprese americane come se fosse una cavolata, dire no, tu non produci più in Messico o non produci più lì, torni negli Stati Uniti, nello stato di cui ho più bisogno. Sono cose molto banali e anche un po' così approssimative. Però sto solo dicendo che. E ha ragione chi scrive cosa c'entra la tassa con i diritti civili. Sto solo dicendo che vedere che insorgono le multinazionali rischia di essere quasi un boomerang per le multinazionali stesse. Un attimo solo, Mario, perché volevo sentire anche il professor Teodori su questo. Qualcuno mi fa notare che che fatica a ascoltarla. La legge sui rifugiati USA fu strumentale, fu fatta per il conflitto in Vietnam, Cuba e Corea. Appunto, siccome non sfugge a nessuno che i rifugiati iracheni e in parte anche quelli siriani sono causa di una politica, sono frutto di una politica degli esteri, politica estera americana fallimentare in tutta l'area del Medio Oriente. La guerra in Iraq l'ha scatenata Bush figlio e poi si è scoperto che era tutto un pretesto. L'atteggiamento di Obama con la Siria è stato, diciamo, quantomeno così altalenante. Le primavere arabe abbiamo visto che cosa hanno comportato sulla parte nord della sponda africana. Anche in questo caso possiamo dire che in parte sono vittime della politica estera americana. Io non sto contestando questo. Però, professor Teodori, non è che quando uno legge che sono appunto queste multinazionali a essere così in prima linea contro l'atteggiamento di Trump, rischia quasi questo di avvantaggiare Trump stesso, che poco fa ha detto con un tweet: se il bando fosse stato annunciato con una settimana di preavviso, come diceva appunto Mario Pratero, i cattivi si sarebbero precipitati nel nostro paese nel corso di quella settimana. Ci sono parecchi cattivi ragazzi là fuori. Teodori. Ma lo ha già detto molto bene Platero, non bisogna confondere un problema degli equilibri economici, del fatto se le multinazionali hanno fatto bene o male a protestare, cosa nella quale io non voglio assolutamente entrare, con un problema di altro tipo, il problema delle regole e delle leggi che disciplinano l'immigrazione negli Stati Uniti. Allora, sotto questo aspetto, il provvedimento che ha preso Trump è un provvedimento che infrange legge, che è la legge del 1965, che è la legge sui diritti civili, che è una legge tra l'altro che aboliva una legge precedente del 52, che era una legge che impediva a determinate categorie di persone di entrare negli Stati Uniti. Allora, siccome il problema della immigrazione da sempre e anche in tutti gli anni del dopoguerra è stato un problema fondamentale della vita sociale e della vita economica americana, un presidente con un ordine esecutivo non può travolgere le leggi, perché l'ordine esecutivo è come una legge, come un provvedimento amministrativo, come qualsiasi altra cosa che è sottoposta alle leggi. Allora, io mi occupo di questo aspetto qui. L'aspetto che non può funzionare di quello che ha fatto Trump è che lui è andato sopra delle leggi molto chiare e il giudice federale di New York e altri giudici federali hanno avuto gioco facile per annullare delle cose che sono non sono state proclamate incostituzionali, ma sono state proclamate non in linea con una legge vigente. Allora, siccome il problema dell'immigrazione è fondamentale nella vita americana, è fondamentale per la macchina economica, per gli equilibri sociali, per tutto il resto, allora intervenire come è intervenuto Trump, tra l'altro con un ordine che probabilmente se andasse al Congresso sarebbe rivisto radicalmente, mi pare che sia una cosa che non funziona. Allora Mario, tu volevi intervenire dopo, di nuovo dopo il traffico, ti chiedo un minuto di pazienza, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora Mario Pratero, poi arriveremo anche alle ripercussioni economiche, prego. Ma dunque no, Sebastiano, direi che appunto Teodori poi ha continuato lungo quella strada su cui ero partito, cioè il provvedimento di Trump, certo, come tu dicevi, risponde alla sua base elettorale e certamente una buona parte di quella base elettorale è contenta, anzi magari, come tu dicevi, si mobilita ancora di più perché dice guarda, un giudice nominato da Barack Obama, quindi la sinistra sta cercando di ostacolare il presidente in questa sua azione, che è poi il mantenimento sacrosanto di una promessa elettorale, che tra l'altro le promesse elettorali non le mantiene mai nessuno. Dunque Donald Trump, il problema è che Donald Trump si butta in avanti perché secondo me ha fatto tra l'altro una gran quantità di cose in questa prima settimana, ma si butta in avanti senza avere i tecnicismi adatti. Per esempio la questione della legge che citava prima Teodori è assolutamente vera, la legge del 75 fu approvata da Lyndon Johnson proprio per chiudere un capitolo che discriminava nel modo in cui ha discriminato lui, che è diverso da quello che ha fatto Barack Obama quando ha chiesto un congelamento delle immigrazioni, dagli altri che devono fare determinati vetting, analisi, eccetera eccetera. Ecco, c'è modo e modo di fare le cose e lui l'ha fatto nel modo sbagliato. Stanno facendo marcia indietro, attenzione, perché ha già detto sia Kelly sia John Kelly, il generale capo di Homeland Security del Dipartimento della Sicurezza Interna, che Reince Priebus, che è il capo di gabinetto, che le carte verdi, quel particolare capitolo sulla carta verde, cioè sul permesso di residenza, cioè il permesso di residenza è come essere americani. Ebbene, hanno posto dei veti, dei limiti anche a questo. Allora, questo è stato già revocato, ne revocheranno degli altri, quindi stanno facendo marcia indietro. Cosa succede, caro Sebastiano? Che ci sono due anime che si confrontano in questa amministrazione. C'è l'anima di Steve Bannon, c'è l'anima di Tilson, numero uno del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sono molto reattive, quindi di fare le cose subito, poi ci pensiamo dopo, e molto orientate, soprattutto per Steve Bannon, all'estrema destra, cioè ai white supremacists, voglio dire, no? Alla supremazia bianca. E c'è l'anima invece più repubblicana, sicuramente conservatrice, ma fatta da personaggi come il generale Mattis, come Reince Priebus, come lo stesso John Kelly, che sono delle persone, o Rex Tillerson, no? Il segretario di Stato, che sono sicuramente seguaci e faranno quello che dice il Presidente. Però lo consigliano in modo più prudente, perché conoscono, secondo me, meglio degli altri come gestire i fatti del mondo. Cioè, questo è il presidente degli Stati Uniti, Sebastiano, non è solo uno che ha vinto le elezioni con certo gruppo. Questo è un punto chiave. Però voglio chiedere anche una cosa agli ascoltatori. Allora, il fatto, come la penso io, è del tutto irrilevante, nel senso che abbiamo fatto intere puntate nelle settimane scorse ricordando storicamente i benefici che l'apertura del commercio mondiale, ma non per gli Stati Uniti, nella storia economica dell'Occidente perlomeno, l'apertura del commercio, i benefici che ha portato ai paesi che hanno aperto il commercio. Abbiamo anche raccontato tutte le contraddizioni di un protezionismo sfrenato, per cui tu rischi di andare a far pagare di più il bene proprio alla classe con minor potere d'acquisto, che più utilizza beni, magari prodotti in Cina, a partire dai cappellini, dalle sciarpe che inneggiavano a Trump durante il suo giuramento, tutti i prodotti in Cina. Il punto che sto, e quindi il fatto che io pongo una domanda non vuol dire che sia d'accordo con Trump, però faccio giornalista e mi chiedo, e la rigiro a Teodori, mettiamola così: dal punto di vista legale, costituzionale, diremmo noi, il provvedimento di Trump traballa, e l'abbiamo capito, però non sta innescando in maniera più carsica, non solo diciamo negli errori macchiani come raccontavate voi, e anche di tecnicalità, diciamo, giuridica, ma non sta innescando e alimentando un meccanismo di cui dovrebbero rendersi conto le stesse multinazionali? Voglio dire, Teodori, è innegabile che le uniche voci che abbiamo letto in questo momento contrarie a Trump non arrivano, diciamo, né dalla working class né dal manifatturiero di base americano del Midwest che produce per il mercato interno, ma arrivano da chi ha avuto tutti i benefici da questa globalizzazione che in alcuni aspetti è stata anche non regolata. Ecco perché citavo il caso fiscale del costo del lavoro, del costo di vendita del bene e quant'altro. Cioè, non si impone una riflessione anche che il mondo è cambiato anche per le multinazionali? Ma se vogliamo allargare il discorso dal caso specifico, il caso specifico che mi pare sia chiaro, in cui Trump ha fatto qualcosa di avventato che viene spazzato via e quindi in un certo senso è un boomerang anche per le sue idee. Lo vogliamo allargare a un problema più generale. Bisogna tenere conto che oggi l'America è assolutamente spaccata in due. Lo diceva anche la copertina del Time tempo fa, quando diceva Stati divisi d'America. L'America è assolutamente spaccata in due e rimane spaccata in due. E questo tipo di prese di posizione da parte del Presidente con gli ordini esecutivi, che è uno strumento straordinario, c'è anche da mettere in dubbio che alcuni di questi provvedimenti non possono essere presi con uno strumento straordinario come gli ordini esecutivi, ma devono passare attraverso delle leggi del Congresso, e Trump non vuole passare attraverso le leggi del Congresso perché sa bene che anche la maggioranza repubblicana probabilmente non lo vota. Andare avanti in questo senso significa spaccare gli Stati Uniti, spaccarla attraverso delle linee che ormai sono molto chiare. È chiaro che c'è tutta la parte tradizionale degli Stati Uniti, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, che lo appoggiano, ma c'è tutta la parte più dinamica, più cosmopolita, quella che si chiama l'America d'acqua, delle coste orientali e occidentali, che è fortemente contro. E io non ricordo nel dopoguerra all'elezione di un presidente che ci siano state una insurrezione così larga e così profonda come quella che sta avvenendo in questi giorni. E siccome un presidente la prima cosa che deve fare, che dovrebbe fare, che tutti hanno dichiarato che vorrebbero fare, è di unire il paese, di rappresentare tutto il paese, a me pare che questa maniera di procedere di Trump sia comunque pericolosa. Ecco. Allora, in 30 secondi, Mario Platero, alcuni ascoltatori mi scrivono: ma come potrebbe andare a finire? Vi potrebbe essere una tale, diciamo, opposizione da portare a un impeachment, che era una cosa che abbiamo letto anche la settimana scorsa? No, allora, guarda, escludiamo, perché queste cose così si prestano a entrare in argomenti da fantapolitica. Per fare un impeachment ci vogliono delle responsabilità molto gravi, molto serie. E ci vuole il Parlamento che si muove, il Parlamento a maggioranza repubblicana, un impeachment anche motivato politicamente. Non vedo, a meno che Trump non impazzisca e faccia qualcosa di molto strano, un impeachment. Quindi Trump continuerà a fare le sue cose. Il prossimo appuntamento sarà fra 2 anni, e quando ci sarà il voto per un terzo del Senato e per tutta la Camera. Andremo avanti. Io credo che Trump, tra l'altro, faccia delle dichiarazioni che si perdano, perché lui parla citando degli slogan. È stato molto interessante quando era con Theresa May, e lei, è stata lei che in qualche modo ha tradotto quello che era il vero messaggio di Trump, per esempio sulla NATO. Insomma, adesso Theresa May, portavoce della Casa Bianca, mi manca. Beh, fatto è successo no, quello. Ma hai ragione, fatto Mario. È successo quello. Voglio dare una battuta. Ma nel senso che ha interpretato. Sì. Sì. Voglio dare, cioè, nel salutare. Sulla NATO. Voglio dare. Scusa, per finire, sulla NATO, tutti sì, pensavano Mario, che sono quello volesse uscire dalla NATO. Invece è quella, ha detto no, al 100% per la NATO, ha tradotto il pensiero di Trump. Allora, chiudo e chioso con una battuta di un ascoltatore che scrive ai suoi esperti che l'America era già spaccata in due, non l'ha spaccata Trump, lui ha solo raccolto, diciamo, quello che era già successo, che la globalizzazione aveva già spaccato in due l'America. Lo abbiamo detto, il punto di Teodori, così faccio anch'io portavoce di qualcuno, era dire, dovresti ricomporre, non aumentare le spaccature. Grazie Massimo Teodori, grazie Mario Platero, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.